Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. E riprendiamo la nostra lettura di Guerra e Pace, ricordando brevemente come nella scorsa puntata si sia visto Napoleone avanzare verso Oriente e provocare i primi scontri con l'esercito russo. Nel corso di uno di questi, Nikolaj Rostov cattura un soldato francese e il fatto gli vale una promozione e un battaglione di ussari al suo comando. Natasha, frattanto, continua a languire. E tuttavia, non tanto grazie agli sforzi dei medici quanto al recupero naturale della giovinezza, inizia a stare leggermente meglio dal punto di vista fisico, anche se l'umore resta buio. Natasha era più calma, ma non più allegra. Non soltanto sfuggiva ogni occasione esteriore di divertimento, balli, gite, concerti, teatri, ma non le capitava una volta di ridere senza che sotto al suo riso si indovinasse il pianto. Non poteva cantare. Appena cominciava a ridere o si provava a cantare per conto suo, le lacrime la soffocavano. Lacrime di pentimento, lacrime di ricordo di un tempo innocente che non poteva tornare, lacrime di dispetto per aver rovinato così inutilmente la sua giovane vita che sarebbe potuta essere così felice. Il riso e il canto specialmente le sembravano una profanazione del suo dolore. Non aveva più tutti quegli interessi che un tempo formavano la sua vita di fanciulla, spensierata e tutta piena di speranze. Più spesso e più dolorosamente di tutto il resto ricordava i mesi di autunno, la caccia, lo zio e le feste di Natale passate con Nikolaj a Otradnoje. Che cosa avrebbe dato per far tornare anche un sol giorno di quel tempo? Ma quello ormai era finito per sempre. I suoi presentimenti non l'avevano ingannata quando sentiva che quello stato di libertà e di pronto accoglimento di ogni gioia non sarebbe tornato mai più. Ma vivere bisognava. La confortava pensare che non era migliore, come prima s'era immaginata, ma peggiore, molto peggiore degli altri, tutti che sono al mondo. Ma era poco. Lo sapeva e si domandava, e dopo? E dopo non c'era nulla. Non c'era nessun piacere a vivere, ma la vita passava. Natasha si sforzava visibilmente di non essere di peso a nessuno, di non disturbare nessuno. Per sé non aveva bisogno di nulla. S'era allontanata da tutte le persone di casa e soltanto con suo fratello Petia si sentiva bene e a volte, quando era sola con lui, rideva. Non usciva quasi mai di casa e fra coloro che venivano non vedeva con piacere che una persona, Pierre. Sarebbe stato impossibile mostrarsi più delicato, più premuroso e insieme più serio di quel che si mostrava con lei il conte Bezukhov. Dopo quelle parole dette impensatamente, che cioè se fosse stato libero egli le avrebbe chiesto in ginocchio la sua mano e il suo amore, parole proferite in un momento di così grande agitazione per lei, Pierre non aveva mai più parlato a Natasha dei suoi sentimenti. E per lei era chiaro che quelle parole, allora così consolanti per lei, erano state dette come si dice qualsiasi parola insensata per consolare un bambino che piange. Non perché Pierre era sposato, ma perché Natasha sentiva fra sé e lui quella forza degli ostacoli morali che aveva sentito mancarle in presenza di Kuragin. Non le veniva mai in mente che le sue relazioni con Pierre potessero diventare amore da parte sua e meno ancora da parte di lui. Anzi, neppure quella specie di poetica amicizia, tenera e confessata fra un uomo e una donna, della quale conosceva qualche esempio. Alla fine del digiuno di San Pietro, Agrafena Ivanovna Bielova, vicina di campagna dei Rostov, venne a Mosca per fare omaggio ai santi moscoviti. Ella propose a Natasha di fare insieme le loro devozioni e Natasha afferrò con gioia quell'idea. Si levava in fretta e si vestiva modestamente col più brutto dei suoi vestiti e con una vecchia mantiglia e tremando dal freddo usciva per le strade deserte, illuminate dalla luce dell'alba. In chiesa c'era sempre poca gente. Natascia e la Bielova si mettevano al solito posto, davanti all'icona della Vergine, incastrata nella parete posteriore del coro di sinistra, e un sentimento di umiltà nuovo per Natascia si impadroniva di lei, innanzi al grande e all'incomprensibile, quando essa, a quell'insolita ora mattutina, guardando la figura nera della Vergine, illuminata dalle candele che le ardevano davanti o dalla luce mattutina che scendeva dalla finestra, ascoltava le parole del rito, che si sforzava di seguire e di comprendere. Le preghiere alle quali si abbandonava di preferenza erano preghiere di pentimento. Tornando a casa, nelle prime ore della mattina, quando si incontravano soltanto muratori che andavano al lavoro, portinai che spazzavano la strada e nelle case tutti dormivano ancora, Natascia provava il sentimento nuovo per lei della possibilità di emendarsi dei suoi peccati e di cominciare una nuova vita di purezza e di felicità. Durante tutta la settimana che ella menò quella vita, tale sentimento crebbe ogni giorno. E la felicità di comunicarsi o di comunicare, come giocando lietamente con questa parola le diceva Agrafena Ivanovna, le appariva talmente grande che le sembrava impossibile giungere a quella beata domenica. Ma il giorno felice arrivò. E quando Natascia, in quella memorabile domenica, in un vestito di mussolina bianca, tornò dalla comunione, per la prima volta dopo molti mesi si sentì tranquilla e non oppressa dalla vita che le si presentava davanti. Il dottore, che venne quel giorno, esaminò Natascia e le ordinò di continuare a prendere quelle ultime polveri che egli le aveva prescritte 15 giorni prima. «Immancabilmente seguitare mattina e sera», disse egli, certo soddisfatto in coscienza del buon esito ottenuto. «Ma, per favore, più regolarmente». «State tranquilla, contessa», disse scherzando il dottore, mentre faceva scivolare sveltamente nella palma la solita moneta d'oro. «Presto canterà e farà il chiasso di nuovo. L'ultimo rimedio le ha fatto bene, molto bene. Si è assai ripresa». La contessa si guardò le unghie e sputò per scongiurare il malocchio, tornando con un viso allegro in salotto. Dal giorno che Pierre, uscendo di casa Rostov e ripensando allo sguardo riconoscente di Natascia, aveva guardato la cometa che stava in cielo e sentito che gli si rivelava qualcosa di nuovo, la questione che sempre lo aveva tormentato sulla vanità e la stoltezza di ogni cosa terrena aveva cessato di presentarsi al suo spirito. Questa terribile domanda, perché? A che scopo? Che prima gli si presentava in mezzo a qualsiasi occupazione, ora cedeva il posto per lui non ad un'altra domanda, né alla risposta all'antica domanda, ma all'immagine di lei. Se udiva o faceva egli stesso qualche frivolo discorso, se leggeva o apprendeva qualche vigliaccheria o stoltezza, non si sgomentava come prima. Non domandava a se stesso perché gli uomini si agitassero quando tutto è così breve ed incerto, ma ripensava a lei, come l'aveva veduta l'ultima volta, e tutti i suoi dubbi sparivano, non perché ella rispondesse alle domande che gli si presentavano alla mente, ma perché l'immagine di lei lo trasportava immediatamente in un altro mondo, nel mondo luminoso della vita spirituale, nel quale non potevano esserci né peccatori né giusti, nel mondo della bellezza e dell'amore, per il quale valeva la pena di vivere. E l'animo suo era limpido e tranquillo. Pierre seguitava ad andare in società, seguitava a bere molto e a condurre la solita vita oziosa e dissipata, poiché all'infuori delle ore che trascorreva dai Rostov bisognava pur passare il resto del tempo, e le abitudini e le conoscenze fatte a Mosca lo trascinavano inevitabilmente a quella vita che lo aveva afferrato. Ma in quegli ultimi tempi, quando dal teatro della guerra giunsero notizie sempre più allarmanti e quando la salute di Natascia cominciò a migliorare e smise di destare in lui quell'antico senso di sollecita pietà, fu preso sempre più da un'inquietudine di cui non capiva il motivo. Sentiva che la situazione nella quale si trovava non poteva durare a lungo, che sarebbe venuta una catastrofe che avrebbe mutato tutta la sua vita. E cercava dappertutto con impazienza i sintomi di questa catastrofe che si avvicinava. Da un pezzo era venuta a Pierre l'idea di entrare in servizio militare e l'avrebbe mandata ad effetto se non glielo avesse impedito, in primo luogo, la sua iscrizione alla corporazione massonica, alla quale egli era legato da un giuramento e che propugnava la pace eterna e la sparizione della guerra. E, in secondo luogo, il fatto che, vedendo la maggior parte dei moscoviti che avevano vestito l'uniforme e facevano professione di patriottismo, si vergognava, chissà perché, di fare quel passo. Pierre in quell'anno era tanto ingrassato che sarebbe stato mostruoso se non fosse stato così alto di statura, così membruto e così robusto da sopportare con evidente facilità la sua pinguedine. Ansimando e brontolando fra sé, salì le scale di casa Rostov. La prima persona che incontrò fu Natascha. Prima ancora di vederla, togliendosi il mantello in anticamera, l'aveva sentita. Ella stava solfeggiando in sala. Egli sapeva che ella non aveva più cantato fin dal tempo della sua malattia, e perciò il suono della sua voce lo sorprese e lo rallegrò. Aprì adagio la porta e vide Natascha, nel suo vestito viola che aveva alla messa, passeggiare per la stanza cantando. Ella gli volgeva le spalle quando egli aprì la porta, ma quando si voltò di scatto e vide il suo grosso viso meravigliato, arrossì e gli si avvicinò rapidamente. «Voglio provare di nuovo a cantare», disse. «Sarà sempre un'occupazione», aggiunse, come per scusarsi. «Benissimo. Come son contenta che siate venuto. Oggi sono tanto felice», disse con quella sua antica vivacità che da tanto tempo Pierre non scorgeva più in lei. «Sapete, Nicolà ha avuto la croce di San Giorgio. Sono così fiera di lui». «Come no? Sono io che vi ho mandato l'ordine del giorno. Ma non voglio disturbarvi», aggiunse, e voleva passare nel salotto. Ma Natascha lo fermò. «Conte, è male che io canti?» disse ella arrossendo, ma guardando Pierre interrogativamente, senza levargli gli occhi di dosso. «No, perché mai? Al contrario. Ma perché me lo domandate?» «Non lo so neanche io», disse in fretta Natascha, «ma non vorrei fare nulla che non vi piacesse. Ho fiducia in voi per tutto. Voi sapete che importanza do alla vostra opinione e quanto avete fatto per me. Ho veduto in quello stesso ordine del giorno che lui, Balkonski, è in Russia e serve di nuovo nell'esercito. Che credete? Mi perdonerà mai? Non avrà un sentimento ostile contro di me? Io credo», disse Pierre, «non ha nulla da perdonare. Se fossi al suo posto...» E per associazione di ricordi, Pierre, in un istante, si riportò mentalmente a quel tempo nel quale, per consolarla, le aveva detto che, se non fosse stato quello che era, ma l'uomo migliore del mondo e libero, avrebbe chiesto in ginocchio la sua mano. E lo stesso sentimento di pietà, di tenerezza, di amore lo prese. E le stesse parole si trovarono sulle sue labbra. Ma ella non gli dette il tempo di pronunziarle. «Ma voi, voi», disse ella, pronunziando con slancio la parola «voi», «voi siete un'altra cosa. Io non conosco e non può esistere un uomo più buono, più generoso, migliore di voi. Se non ci foste stato voi allora e anche ora, non so che cosa sarebbe di me, perché...» E ad un tratto le lacrime le spuntarono negli occhi. Si voltò in là, sollevò il quaderno di musica davanti agli occhi e ricominciò a cantare e a passeggiare per la sala. In quel momento Petya venne correndo dal salotto. Petya era adesso un bel ragazzo di 15 anni, colorito, con delle grosse labbra rosse e somigliava a Natascha. Si preparava per l'università, ma in quegli ultimi tempi, col suo compagno Obolensky, aveva deciso segretamente di entrare negli Ussari. Dopo pranzo, il conte si sedette comodamente in una poltrona e con un viso serio pregò Sonia, che aveva fama d'essere ottima lettrice, di leggere il proclama dell'imperatore. «Alla nostra prima capitale Mosca. Il nemico, con potenti forze, ha varcato le frontiere della Russia. Viene a devastare la nostra amata patria», leggeva attentamente Sonia. Il conte, con gli occhi chiusi, ascoltava, sospirando forte a certi punti. Natascha stava a sedere, rigida, guardando fisso e con occhio scrutatore ora il padre, ora Pierre. Pierre sentiva su di sé il suo sguardo e si sforzava di non voltarsi verso di lei. La contessa scoteva il capo disapprovando e sdegnandosi ad ognuna delle espressioni solenni del proclama. Ella, in tutte quelle parole, vedeva soltanto che i pericoli che minacciavano suo figlio non stavano ancora per scomparire. Dopo aver letto quanto si riferiva ai pericoli che minacciavano la Russia, alle speranze che l'imperatore fondava su Mosca e specialmente sulla sua illustre nobiltà, Sonia, con un tremito nella voce, che veniva soprattutto dall'attenzione con cui si sentiva ascoltata, lesse queste ultime parole. «Noi non tarderemo a venire in mezzo al nostro popolo, in codesta capitale e nelle altre città del nostro impero, per deliberare e per guidare tutte le nostre milizie, tanto quelle che ora contendono il passo al nemico, quanto le nuove che si vanno formando, per sconfiggerlo dovunque si presenterà. Che la sciagura nella quale esso ha voluto precipitarci ricada sul suo capo e che l'Europa, libera dalla schiavitù, glorifichi il nome della Russia». «Ben detto!» esclamò il conte, aprendo gli occhi umidi di lacrime e tirando su a più riprese, come se gli avessero avvicinato al naso una fiala di potenti sali. «Basta che l'imperatore parli e noi sacrificheremo tutto senza risparmio». In quel momento Petia, al quale nessuno faceva attenzione, si avvicinò al padre e, tutto rosso in viso, disse con voce rotta, ora ruvida, ora acuta: «Ebbene, adesso, papà, ve lo dico risolutamente, e anche alla mamma, sia come vogliate, lo dico risolutamente, che mi dovete lasciare entrare nell'esercito, perché non posso, ecco...» La contessa alzò con spavento gli occhi al cielo, battendo le palme, e si rivolse adirata al marito. «Ecco, finalmente l'ha detto!» Ma il conte, in quel momento stesso, s'era calmato. «Via, via!» disse. «Che guerriero! Smetti queste sciocchezze! Studiare bisogna!» «Non sono sciocchezze, papà. Fedia Obolensky è più giovane di me, eppure ci va. E poi, tanto io non posso imparare nulla ora, quando...» Petia si fermò, si fece rosso sino a coprirsi di sudore e disse: «Quando la patria è in pericolo». «Basta, basta, sciocchezze! Ma se l'avete detto voi stesso, che sacrificheremo tutto! Petia, ti dico, sta zitto!» gridò il conte, dando un'occhiata alla moglie che, pallida, guardava con gli occhi fissi il suo figliolo minore. «Ve lo dico, papà. E anche Piotr Kirillovich vi dirà...» «E io ti dico che sono sciocchezze! Ha ancora il latte sulle labbra e vuol fare il soldato! Su, su, ti dico!» E il conte, prendendo con sé il foglio, probabilmente per rileggerselo un'altra volta nel suo studio prima di fare la siesta, uscì dalla stanza, dicendo: «Su, Piotr Kirillovich, andiamo un poco a fumare!» Pierre si trovava in imbarazzo ed era indeciso. Gli occhi di Natascia, insolitamente brillanti e animati, che si rivolgevano di continuo a lui con uno sguardo più che carezzevole, lo avevano messo in quello stato. «No, credo che andrò a casa». «Ma come a casa? Se volevate passare la sera con noi, venite già così di rado, e questa mia figliola», disse bonariamente il conte indicando Natascia, «è allegra soltanto quando ci siete voi». «Sì, già, ma ho dimenticato, debbo andare assolutamente a casa, ho da fare», disse in fretta Pierre. «Allora, arrivederci», disse il conte, che uscì dalla stanza. «Perché ve ne andate? Perché siete sconvolto? Perché?» domandò Natascia a Pierre, guardandolo con aria provocante. «Perché ti amo», avrebbe voluto dire Pierre, ma non lo disse. Arrossì fino alle lacrime e abbassò gli occhi. «Perché è meglio che io venga da voi più di rado, perché... semplicemente perché ho da fare». «Perché? Dite!» cominciò risolutamente Natascia, ma ad un tratto tacque. Tutti e due si guardarono, spaventati e confusi. Egli provò a sorridere, ma non gli riuscì. Il suo sorriso esprimeva la sofferenza. In silenzio le baciò la mano ed uscì. E Pierre risolvette fra sé di non andare più dai Rostov. E adesso andiamo a vedere quello che succede a Lisiagori. La principessina Maria passava una metà della giornata da Nikolushka, seguendo le sue lezioni, dandogli essa stessa lezione di lingua russa e di musica e discorrendo con Dessal. L'altra metà della giornata la passava coi libri, con la vecchia balia e con la gente di Dio, che talvolta andava da lei, passando dalla porta di servizio. Della guerra la principessina Maria pensava ciò che pensano della guerra le donne. temeva per suo fratello, che stava laggiù. Era inorridita, senza comprenderla, dalla crudeltà degli uomini che li spingeva ad uccidersi l'un l'altro, ma non penetrava il significato di questa guerra, che le pareva come tutte le altre guerre antecedenti. Il vecchio principe, per tutto il mese di luglio, fu straordinariamente attivo e anche vivace. Fece piantare un nuovo giardino e costruire un corpo di fabbrica per i domestici. La sola cosa che inquietava la principessina Maria era che egli dormiva poco e, mutando la sua abitudine di dormire nello studio, faceva ogni giorno cambiare di posto al suo letto. Ora ordinava di preparare il suo letto da campo nella galleria, ora rimaneva sul divano o sulla poltrona alla Voltaire nel salotto e sonnecchiava senza spogliarsi, ora passava la notte in sala da pranzo. In questo periodo il vecchio principe riceve alcune lettere del figlio. Nella prima questi chiede perdono al padre per come si era comportato con lui al tempo in cui voleva sposare Natascia contro la volontà del genitore. Qualche tempo dopo, ai primi di agosto, nella seconda lettera il principe Andrei descrive in pratica la situazione della campagna militare e fa presente al padre l'incresciosa situazione di trovarsi così vicino al teatro delle operazioni. E come già lasciava presagire la lettera di Andrei, la situazione militare precipita. La città di Smolensk, che è vicinissima alla tenuta di Lisia Gori, cade nelle mani dei francesi. Da Smolensk le truppe russe seguitarono a indietreggiare. Il nemico le inseguiva. Il 10 agosto il reggimento comandato dal principe Andrei passava sulla strada maestra, di fronte al grande viale che conduceva a Lisia Gori. Il caldo e la siccità duravano da più di 20 giorni. Ogni giorno vagavano nel cielo nuvole a pecorelle, nascondendo di tanto in tanto il sole, ma verso sera il tempo si rischiarava di nuovo e il sole andava sotto in una nebbia rossobruna. Soltanto una forte rugiada di notte rinfrescava la terra. Il grano non ancora tagliato bruciava e perdeva i suoi chicchi. Gli stagni erano a secco. Il bestiame muggiva dalla fame, non trovando nutrimento nelle praterie arse dal sole. Soltanto di notte, nei boschi, quando c'era ancora la rugiada, faceva fresco. Ma sulla strada maestra percorsa dalle truppe, anche di notte, anche fra i boschi, questo fresco non c'era. Non c'era vento. E la gente soffocava in quell'atmosfera immobile. Gli uomini camminavano turandosi il naso e la bocca col fazzoletto. Arrivando a un villaggio, tutti si slanciavano verso i pozzi, si picchiavano per un po' d'acqua e la bevevano fino alla mota. Il principe Andrei comandava un reggimento e il benessere dei suoi uomini, la necessità di ricevere e di dare ordini, l'occupavano. Il nuovo sentimento di ostilità verso il nemico gli aveva fatto dimenticare il suo proprio dolore. Era tutto dedito alle faccende del suo reggimento, preoccupato dei suoi uomini e dei suoi ufficiali e affettuoso verso di essi. Nel reggimento lo chiamavano il nostro principe, erano fieri di lui e lo amavano. Il 10 agosto la colonna nella quale si trovava il suo reggimento giunse all'altezza di Lisia Gori. Il principe Andrei, due giorni prima, aveva ricevuto la notizia che suo padre, suo figlio e sua sorella erano partiti per Mosca. Benché al principe Andrei non restasse nulla da fare a Lisia Gori, pure, con la sua smania di inacerbire il proprio dolore, ritenne di dover passare da Lisia Gori. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it. Thank you.